Yo, prima aliena De QMC, Daja, contatti. E che cazzo di era è questa? Mi ricordo che una volta ci si dava la punta. Ora non si racconta, adesso tutto si posta. Poche lire nella tasca, noi stessi ci si basta. Adesso senza l'iPhone ci si mangia la testa. Passano gli anni, passa la tecnologia. Passa la gente su di una rete che non saluti sulla via. Non ci si guarda negli occhi e mette mi piace pure mia zia. Con progetti in quantità che dopo tu li butti via. Condividi emozioni nella vita, la realtà. Non da dietro uno schermo, ma con semplicità. Parla con la gente, gira per la strada. Cerca la tua musica e non tenere il cuore a bada. Ma stai attento, lo schermo è finto. Il paint non potrà sostituire mai un bel dipinto. Cerco vita e la cerco dentro me. Non mi serve Google per trovare questo rap. Più la musica si evolve, più il concetto di cultura si sconvolge. Dallo spargere l'amore ad odiare il proprio creatore. Datemi il mio tempo, giorni, minuti ed ore. Più la musica coinvolge, più la gente quando parla mi sconvolge. Dall'amore universale alla solita presa male. Alieno rima, alieno rimo per non stare male. Mi sento alieno in un mondo fatto di cloni. Di messaggi, depistaggi che sconvolgono i neuroni. Tornerei a quei tempi in cui sentivo le canzoni con gli amici sul divano, due risate e sei cannoni. Ma tutto è cambiato, tutto è stato travisato. Dal sorriso per l'amico alla bomba dopo mangiato. Do la colpa ai tempi che cambiano direzione. Do la colpa ai treni che ho perso seguendo un'ambizione. Ciao. Ti vedo bene, ma bene che intendi. Sorridente o tristemente, assiduamente trendy. Non mi chiedere che passa, è la solita zuppa. Rima aliena assieme a Daja su terra distrutta. Voglio indietro le cabine, tenetevi i cellulari. Altro che vivere meglio, li usate come collari, stretti attorno al collo di chi state domando, di chi vende per due spicci quello che sta sognando. Oh! Più la musica si evolve, più il concetto di cultura si sconvolge. Dallo spargere l'amore ad odiare il proprio creatore. Datemi il mio tempo, giorni, minuti ed ore. Più la musica coinvolge, più la gente quando parla mi sconvolge. Dall'amore universale alla solita presa male. Alieno rima, alieno rimo per non stare male. Troppo facile voltare le spalle, troppo abile. Seguire il vento e la bandiera, troppo acide. Parole che diventan gialle, troppo forte il desiderio di riavere la mia era. Troppo facile voltare le spalle, troppo abile. Seguire il vento e la bandiera, troppo acide. Parole che diventan gialle, troppo forte il desiderio di riavere la mia era. Rima aliena.